C'è stato un tempo in cui, allorquando qualcuno su un campo di football segnava un gol, veniva avvicinato dal capitano che, con un sorriso appena accennato, gli stringeva la mano. Il che si adattava bene al paradigma della virilità in auge e nel mondo dello sport. Desmond Morris, nel suo ormai classico studio dedicato alla tribù del calcio, è un libro che è del 1981, tenta una classificazione dei gesti che a quella primigenia stretta di mano sono poi seguiti. Allora abbiamo avuto corse a perdifiato urlando per il campo, braccia al cielo, pugni chiusi con balzo, pugni chiusi con inclinazione all'indietro del corpo, corsa sul posto tipo danza di guerra, abbraccio semplice, abbraccio multiplo, abbraccio con balzo, abbraccio orizzontale sul terreno, sollevamenti, mucchi selvaggi, baci, pacche, un po' qui un po' là, e arruffamenti paterni delle zazzere folte. Abbiamo avuto un po' tutto questo. Morris non poteva immaginare, quando ha scritto il suo libro, che le leggi dell'evoluzione avrebbero spinto ancora, forse molto più in là, i termini della questione. La televisione ci si è messa di mezzo, come in tutto, e il gesto di trionfo, espandendosi epidemicamente, è finito, come tante altre cose, fra le merci semiologiche ad alta deperibilità. La variazione, come in un mercato dove viga la libera concorrenza, la variazione è d'obbligo. Così, sui campi di football, abbiamo potuto annoverare corse intorno alla bandierina del calcio d'angolo, impugnature tronfie della medesima, oppure arrampicata delle grate a contatto diretto col fiato del tifoso urlante, gente che si strappa la maglia di dosso e, dopo averla baciata freneticamente, la ruota festosamente in aria, oppure gente che all'acme della catarsi individuale si mummifica per qualche momento con la stessa propria maglia stretta sul capo. A questo vasto repertorio individuale recentemente poi si sta aggiungendo un repertorio di tutt'altra natura. Allora, dopo aver segnato un gol, c'è chi fa il trenino ginocchioni con i compagni, chi si ritrova ai bordi del campo e organizza il ballo detto della Macarena, o chi, tenendosi tutti per mano, si slancia sotto la tribuna dei tifosi più appassionati, planando di petto sul manto erboso. Nella collettivizzazione sempre più marcata, è chiaro che la spontaneità, che quella spontaneità che magari un tempo c'è stata, nel frattempo si è andata a far benedire. Così come colui che inventò il gesto gioioso di coprirsi il capo con la maglia finì con lo sponsorizzarsi la canottiera, così tutti costoro dimostrano che il calcolo ha preso il sopravvento sull'ingenuità, la premeditazione ha vinto sulla casualità del momento. Dai paesi latini che hanno dato la spinta decisiva a questa forma di progresso, deriva anche quel particolare coinvolgimento degli spettatori definito come ola. Ci si alza a turno e si getta le braccia al cielo. Quando lo si fa in tanti, pare un'onda che percorre lo stadio intero, e siccome almeno secondo i commenti compiaciuti dei telecronisti, tutto ciò comproverebbe la fratellanza gioiosa degli spettatori. Dagli stadi, tuttavia, come virus incontrollati, questi gesti escono e impestano gli inermi. Testimonianze degne di fede mi assicurano che qualche tempo fa, in una ola gigantesca, si impegnò, lo sa Dio per l'iniziativa di chi, ma presumibilmente tedeschi, in odor di ossequio culturale, si impegnò tutto il pubblico della Carmen di Bizet all'Arena di Verona. Mentre l'altra sera invece la ola mi ha colto fra capo e collo, direttamente in trattoria. Durante una cena conviviale di una quarantina di persone, fra l'arista di maiale ed il fritto misto alla toscana. Dobbiamo dunque attenderci manifestazioni consimili nelle corsie d'ospedale, nelle biblioteche o nei luoghi pubblici, magari tipo i bagni pubblici, ovunque qualche assiso spettatore, cedendo alla propaganda della socializzazione coatta, ritenga opportuno partecipare collettivamente di una gioia che, peraltro, non c'è. Quando il mio commensale di sinistra ha guardato la bottiglia innanzi a sé, l'ha vista agli sgoccioli, ed ha fatto un cenno al cameriere. Il suo dirimpettaio si è accorto della manovra e, illuminandosi, gli ha porto la mano destra aperta, contro cui è andata immediatamente a sbattere la mano a destra aperta altrettanto dell'altra. Gli ha dato il 5, come credo dicano gli americani e come usa fra giocatori di basket e di pallavolo. Segno di sovrana intesa il riconoscimento al merito sportivo. Qui, in omaggio all'enorme capacità metaforica dell'essere umano, esteso al merito etilico.